Sento un vento freddo che ti tira da maestrale, magistrale e solenne. Perché pensa a quel letto scoperto impaurito, svestito del suo corpo volto per la sorte, verte sfinito su altre porte. Accorta il fato è causa di tragedie, le delle congreghe in sede di progenie, provocando di ali su un'alisi senza analisi sulla genesi. E vede ciò che succede innalzando bare su un clima fatale. La lama taglia salma, i salmi dettano convegni, letale la sua delezione. Normale la prua in distruzione, e non c'è fuga dalla disperazione, ma una ruga di frustrazione, una buca nuda, una mascella in lacerazione, per masticazione data da tensione labile, per successione instabile, ineluttabile, sul trono incomprensibile. Non c'è bontà, non c'è serenità, nel fato ingrato vige l'eternità. Si smembrano le membra, prendo la lametta, la stendo sul mio petto, il cuore si sfracella. Non c'è bontà, non c'è serenità, nel fato ingrato vige l'eternità. Si smembrano le membra, prendo la lametta, la stendo sul mio petto, il cuore si sfracella. Non esiste laurea ad honoris causa, si intristisce la luce aurea in casa. Non rincasa l'aria, è un macigno che ingrassa. Non passa la balia che accudiva il regno. Ora basta, la massa è in suolo indegno. E basta, è versa lacrime e sanime. Non ci sono esami né pegno quando le parche ti buttano. Non nel parquet ma nel deserto è diverso stare in un altro sistema con la vena piena per causa iena. E sa di che ti stradica ingiustizia per una mestizia che ti assimila e ti vomita. Evento orribile ma per di più inaccettabile. Se nasci in accetta muori in fretta, incredibile. In quanto ancora io sono incredulo, in seguito forse, forse sarò più lucido. Per ora un bozza in gola e rimurgino e rigurgito, risuscito tozzo per tozzo quella suola. Ma una suoia ha già fatto pulizia e crudeltà e viltà che t'ha ridotto in cacchessia. Non c'è bontà, non c'è serenità, nel fato ingrato vige l'eternità. Si smembrano le membra, prendo la lametta, la stendo sul mio petto, il cuore si sfracella. Non c'è bontà, non c'è serenità, nel fato ingrato vige l'eternità. Si smembrano le membra, prendo la lametta, la stendo sul mio petto, il cuore si sfracella. Non c'è bontà, non c'è serenità, nel fato ingrato vige l'eternità. Si smembrano le membra, prendo la lametta, la stendo sul mio petto, il cuore si sfracella. Non c'è bontà, non c'è serenità, nel fato ingrato vige l'eternità. Si smembrano le membra, prendo la lametta, la stendo sul mio petto, il cuore si sfracella. Bontà, serenità, l'eternità, le membra, la lametta sul mio petto, si sfracella.